questa sera qui con noi Andrea Pozza, che è un collega della provincia dell'ufficio Estimo ed è già stato nostro ospite in quanto ha collaborato anni fa per la realizzazione del libro Bunker, un'indagine catastale, fotografica, tecnica di tutti quelli che sono i rifugi antiaerei, Sì, correggimi se sbaglio, bunker bunker. della seconda guerra mondiale e della guerra fredda. Ecco, anche quel libro corredato di numerose immagini realizzate, vero, sempre da Andrea Pozza, e presente in biblioteca, quindi è consultabile, anzi si può prendere in prestito. Poi sei stato ospite anche di un altro libro, tutto tuo, Il Barone. Sì, Barone Blu, quello era stato il primo che abbiamo fatto. Io lì ho solo dato una mano all'autore, un po' a rivedere il libro, e poi ho messo qualche fotografia, però quella è stata proprio una comparsa mia. Certo, comunque insomma diciamo che si può dire che Andrea Pozza, oltre ad essere un professionista in provincia riconosciuto, ha due grandi passioni che sono la fotografia e il volo. E questa sera ci parlerà di entrambe le cose. Vedremo delle immagini, oltretutto questo libro e queste immagini sono oggetto di una mostra che è stata ospitata al Museo Sì, Caproni, c'è ecco, sì, una una parte parte ancora lì. visibile già al Museo Caproni. Ecco, dal 2006 sei il fotografo ufficiale del Il Pioneer Pioneer Team, Team, sì. quindi riprende, fa le foto appunto di queste evoluzioni, seguendo anche questi team in giro per il mondo. Eh sì, E fortunatamente. questa sera ci darai un saggio di queste esperienze, di queste emozioni che si vivono in un'altra Speriamo. dimensione. Ecco, va bene. Va Cedo subito la bene, parola, vi io. ringrazio della vostra partecipazione, colgo l'occasione anche per farvi degli auguri per la buona Pasqua e ci rivediamo poi fra una settimana. Ecco, Grazie Valeria, Andrea, grazie. innanzitutto ti ringrazio di avermi invitato, di essere qui stasera, quindi Nostra, ringrazio tutta la biblioteca ok. che mi ha dato una mano anche con l'allestimento. Mi chiamo Andrea Pozza, ormai l'avrete capito, da circa 15 anni ho abbinato la passione della fotografia alla passione del volo. Dapprima ho iniziato a frequentare così gli air show come appassionato insieme ad altri fotografi, ci eravamo un po' trovati, eravamo tutti fotografi del nord Italia, avevamo fondato un circolo di fotografia aeronautica. E così abbiamo cominciato a muovere un po' i primi passi in questo mondo un po' particolare, per noi era l'inizio. E grazie a questo circolo abbiamo iniziato a organizzare le prime mostre fotografiche, sempre a tema aeronautico, e abbiamo iniziato a fare anche alcuni concorsi. Io ho avuto la fortuna di vincere la seconda edizione di questo concorso con una foto che poi potrete vedere, non si sente? Va bene l'audio? A me non piace tanto parlare, quindi anche usare il microfono, però Sì, se non perché ognuno ha un tono di sentite, voce diverso, allora a volte abbiamo dei relatori se che non parlano un sentite, po' casomai me lo piano. dite, io lo prendo. Ecco, allora stavo un po' raccontando di questa prima fotografia un po' importante, che è stato quasi uno scatto casuale, non dovrei dirlo, però è così, a volte la fortuna aiuta. E quindi è stata una fotografia che ha vinto appunto questo concorso, ha iniziato un po' a girare e grazie a questa foto ho iniziato anche a conoscere un po' persone che lavoravano nel campo dell'editoria e nel campo dell'editoria aeronautica. Sono stato contattato dall'allora direttore di Aviazione Sportiva, che era un giornale proprio tematico che parlava di volo. Presi i primi contatti, mi sono presentato, ho visto i miei lavori e da lì ho iniziato questa collaborazione che è durata 10 anni, che poi non è che sia interrotta, nel senso che poi è stato chiuso il giornale e abbiamo aperto un giornale nuovo, quindi la collaborazione continua tuttora con lo stesso staff, lo stesso direttore, abbiamo solo cambiato il titolo del giornale. Come ha detto Valeria, nel 2006, muovendomi un po' per gli air show, conoscendo persone, sono entrato a far parte di questo team, che è il Pioneer Team, che è un piccolo team italiano, che però ha fatto grandi cose, perché ha portato il mondo del volo ultraleggero in giro per il mondo, l'ha fatto conoscere. Abbiamo avuto la possibilità di andare a grossi air show, perché siamo stati a air show veramente internazionali in Giappone, Corea, Emirati Arabi, e questo ha consentito a me, oltre di seguire loro, anche di poter fare delle foto un po' diverse da quello che eravamo abituati a fare qui noi in Italia, a entrare anche in contatto con diversi piloti, organizzatori di altre manifestazioni, e così via via, insomma, da cosa è nata cosa. E sono arrivato a questo lavoro, che raccoglie, come ho detto, 10 anni di attività, dalle prime fotografie alle ultime, e avevo voglia comunque di fare qualcosa di mio, perché, come ha detto Valeria, avevo già anche fatto degli altri lavori con la provincia, e che oltre a lavorare come tecnico, come geometra per la provincia, faccio anche fotografie, mi sfruttano un po' anche dal punto di vista fotografico, però avevo questa grossa voglia di fare qualcosa di mio, che esulava un po' anche da quello che era il mio lavoro quotidiano, perché chiaramente la passione per gli aerei non è quello che io faccio tutti i giorni. Quindi ho presentato una bozza di questo lavoro al Museo Caproni di Trento, che non so quanti conoscono, comunque è un bellissimo museo a tema aeronautico che abbiamo la fortuna di avere vicino a casa, e ha una delle collezioni più belle d'Italia, con dei cimeli e degli aerei originali che valgono veramente la pena di essere visti. Quindi, se nessuno di voi l'ha mai visto o chi non l'ha mai visto, lo invito veramente ad andare a vedere questo museo. Loro mi hanno affiancato, è piaciuto il lavoro, e quindi da un'idea è nato poi il libro, a cui è seguita una mostra. Il libro è stato presentato a maggio dell'anno scorso, in occasione della presentazione è stata allestita questa mostra fotografica che ha preso tutto il museo, è stata visitabile fino ai primi di settembre. Adesso una parte è stata smontata perché stanno ristrutturando un hangar, però una parte è ancora visitabile, quindi alcune delle immagini che vedrete qui sono visibili anche giù a Trento. Io, da buon fotografo, ho esaurito le parole, nel senso che mi trovo bene con la macchina fotografica, un po' meno a parlare. Avrei preparato una sequenza di foto con un po' di musica che adesso io vi farei vedere, e dopo, se volete farmi delle domande o volete che approfondisco qualcosa, sono qua, insomma. Ecco, adesso siamo entrati un po' nel vivo, nel mondo degli aerei, no? Non volevo raccontarvi troppo prima, anche per non rovinarvi la sorpresa. Allora, questo libro, come vedete per la prima volta, sono stati raccolti tutto quello che gravita nel mondo del volo. Partiamo dalle mongolfiere, perché l'uomo ha iniziato a volare con la mongolfiera, l'uomo continua tuttora a volare con la mongolfiera, e io che ho provato a volare con quasi tutto, vi posso assicurare che il volo in mongolfiera continua a essere per me il volo più bello. Poi abbiamo i velivoli storici, siamo partiti proprio dal Flyer dei fratelli Wright, che è il primo aereo a motore, che nel 1903 ha consentito all'uomo di volare con il motore. Siamo arrivati poi agli aerei della Seconda Guerra Mondiale, dove siamo entrati proprio nel fulcro dell'uso anche dell'aereo. Una piccola carrellata nel mondo dell'aviazione sportiva, che comunque è l'aviazione nostra, è quella con cui noi voliamo sempre, tutti i giorni, chiunque di noi ha la possibilità di poterlo fare, se non da pilota, da passeggero. E poi si entra nel mondo degli air show, che comunque è il mondo più avvincente, più bello. Metà del libro è dedicato a questo ultimo capitolo, e qui troviamo di tutto, chiaramente. Troviamo aerei veloci, aerei che vanno piano, di nuovo anche mongolfiere, perché nel mondo degli air show ci sono anche le mongolfiere. E poi soprattutto quello che io ho voluto cercare di trasmettere, e spero di esserci riuscito, è proprio quello che c'è dentro nell'air show, nel mondo del volo, perché voi avete visto, ci sono gli aerei, lo sappiamo tutto, però ci sono anche le persone. Gli air show sono fatti di persone, gli aerei sono pilotati da persone, e poi c'è il pubblico, senza il quale gli air show non sarebbero niente. e quindi la possibilità di avere partecipato agli air show non soltanto come giornalista o come fotografo accreditato, ma all'interno di un team, mi ha dato proprio la possibilità di conoscere dall'interno questo mondo, di instaurare anche delle amicizie particolari, perché poi vivendo assieme per tanto tempo si instaurano anche delle belle amicizie, però forse di cogliere un po' l'aspetto dell'air show dall'interno. Io spero di esserci riuscito, io ci ho provato, sembra che la cosa piaccia, la prima volta che in un libro non troverete sempre solo gli aerei, ma troverete anche delle facce e anche delle persone. Ho intitolato la mia prefazione di questo libro Il sogno di un bambino, perché io da bambino che sogno il mondo del volo, un sogno che tuttora continua ad andare avanti, perché comunque il mondo del volo è un sogno, e quando si entra a far parte di questo mondo si continua a sognare anche da adulti, ve lo posso garantire. E gli occhi dei bambini portano avanti questo sogno, perché non c'è niente di più bello di essere lì e vedere questi bambini lì che ti guardano come veramente come arrivassi dalla luna. Quindi spero di aver trasmesso anche questa cosa, che sono belli gli aerei, ma è soprattutto molto bella la gente che lavora, c'è gente che lo fa per passione come me, molti di questi piloti sono veramente appassionati, quindi non perché abbiamo l'aeronautica militare, dove abbiamo dei piloti che lo fanno di lavoro, che partecipano agli air show anche gratuitamente, perché ci siamo noi che paghiamo, ma poi ci sono tante realtà minori fatte da piloti privati che con grandi sacrifici, devo dire, specialmente negli ultimi anni dove gli sponsor sono scappati tutti, dedicano il loro tempo libero per fare questo. Quindi lavorano tutto il giorno e il sabato e la domenica si dedicano a queste cose. Quindi spero di riuscire a trasmettere questa passione, insomma, che viene da dentro, da questo mondo. Quindi abbiamo delle mongolfiere, no? Ogni tanto in gennaio una vicina, sì, qui, una vicina che passavano in Valle di Sotto. Qui c'è sempre un raduno molto grosso a Dubiaco, sempre intorno all'Epifania, dove si trovano una trentina di mongolfiere più o meno. E poi bisogna dire anche che l'inverno ci sono le condizioni ideali per i lunghi voli. Quindi abbiamo tantissimi piloti che partono dalla Germania e arrivano a Venezia o comunque e transitano sulle Alpi. Sì. Perché d'inverno abbiamo poche correnti, giornate belle, si consuma di più, però non c'è il vento, perché la mongolfiera, l'unica cosa la mongolfiera che non può fare è dirigere, cioè dirigere non determina, la mongolfiera può andare su, può andare giù, però deve sempre cercare la corrente che la porta nella direzione dove vuole andare. E in inverno abbiamo queste correnti che attraversano le Alpi, non forti, e che quindi consentono di fare questi viaggi, perché in mongolfiera si viaggia, non si vola. Questo è proprio, se voi dite a un pilota di mongolfiera che bel volo che hai fatto, si arrabbia, perché proprio non è previsto, in mongolfiera si viaggia. Quindi, non lo sapete. Sì, quindi se lo incontrate gli chiederete: mi porti a fare un viaggio, non mi porti a volare, così sicuramente vi porterà a viaggiare. Io di mio avrei finito. Se qualcuno vuole fare delle domande, delle curiosità, vuole che approfondisco qualcosa, prego. Le volevo dire, queste fotografie sono foto scattate da lei. Da me? Sì. Sì, posso garantirlo. Sì. Ma un aereo in volo, lei è dovuto salire su un aereo. Qui c'è un po' di tutto. Qui ci sono riprese fatte da terra, riprese fatte durante delle sessioni fotografiche preparate, quindi o da un elicottero o da un aereo apposta aperto, dove uno è legato e sta fuori, con gli aerei che passano sotto, oppure ci sono delle immagini fatte all'interno delle pattuglie. Lì allora si vola dentro nell'aereo con la pattuglia acrobatica e si fanno le foto mentre le pattuglie fanno gli svoltolamenti, come dice qualcuno. Parecchi paesaggi di montagna, no? Sì, sì. Vuol dire che sono state scattate. Beh, qui da noi, io abito qui, quindi sicuramente sì. Sfrutto le Dolomiti, anche perché abbiamo un patrimonio qua dietro casa, sarebbe peccato non usarlo. Certo, air show nelle Dolomiti non se ne fanno fanno qualcosina, qualche manifestazione. Quindi quando lei ha visto le pattuglie che volano sulle montagne, quelle sono delle sessioni fotografiche che vengono organizzate apposta per fare quelle fotografie. Mentre ci sono tante foto nel deserto, perché nel deserto si può fare quasi tutto, c'è un bellissimo air show che organizzano negli Emirati Arabi, dove partecipano un po' tutti, e siccome lì la benzina e il carburante costa poco, si possono andare a fare le sessioni fotografiche. Quando uno vuole può andare a fare le sessioni fotografiche, cosa che da noi, perché muovere gli aerei costa, quindi ti mandano addirittura sopra Dubai con i jet a fare le foto. Quindi insomma, muovere due pattuglie acrobatiche di jet ha un costo enorme. Abbiamo fatto un'ora di volo, abbiamo fatto tutti gli Emirati Arabi per fare delle foto, quindi queste cose succedono solo lì, per fortuna succedono lì. Invece le frecce tricolori fanno degli air show? Le frecce tricolori fanno degli air show tutto adesso. Il primo di maggio di ogni anno c'è l'apertura della stagione, che è un evento gratuito a cui tutti possono partecipare. Lo fanno a Rivolto, a casa loro, perché le frecce tricolori sono a Rivolto, vicino a Udine, quindi chiunque può andare a vedere questo air show molto bello. Presentano i piloti nuovi, la compagine dell'anno, e poi li si può vedere durante tutto l'anno. Se uno va sul sito delle frecce tricolori, c'è il calendario, li vediamo vero spesso sulle spiagge, ci sono a Jesolo, ci sono a Grado, perché anche qua in Italia sta prendendo piede questa cosa, che è nata un po' in Spagna, perché d'estate è inutile portare la gente dentro negli aeroporti, ma è meglio portare gli aerei sulle spiagge, dove la gente è già lì sdraiata, si gode il sole e si guarda anche verso. Questa cosa è nata in Spagna, va molto bene, e da qualche anno lo stanno facendo, per fortuna, anche qua da noi in Italia. Qualche curiosità? Qualcosa che vi ha colpito in particolare? Qualche immagine che vi ha lasciato un segno? Ne ho messe troppe? No, la seconda o la terza, cos'era? La seconda o la terza? Era un stage show. Allora, quello è un primo piano del cesto di vimini della mongolfiera. La mongolfiera ha iniziato a volare con il cesto di vimini più di 100 anni fa, e tuttora continuano a volare con questo tipo di cesto, perché è molto resistente. E siccome quando si atterra con la mongolfiera non è come l'aereo che si arriva giù così, molte volte si sbatte, se c'è vento la mongolfiera si ribalta, viene anche trascinato, è proprio un molto elastico, quindi questo cesto si deforma, non pesa neanche tanto perché il vimini non pesa, e quindi è un materiale naturale che funziona, e loro, che sono molto fedeli alla tradizione, continuano a usarlo. Ce n'è di diversi tipi, perché partiamo dal cesto che è grande così, dove ci stanno dentro due persone, ci sono dei cesti che sono lunghi come questa libreria, ci stanno dentro anche 15-16 persone, quindi chiaramente le dimensioni del pallone cambiano, no? Perché più peso si deve sollevare, più il pallone deve essere grande. Il principio è sempre quello dell'aria calda, avete visto i bruciatori? Che scaldano l'aria all'interno del pallone diventa più leggera e il pallone sale. Ma il serbatoio dov'è? Nelle ceste, nei quattro angoli delle ceste, in quelle grandi anche in mezzo, ci sono delle bombole di propano, perché bruciano, questo è un gas che una volta usavano dei gas molto più pericolosi, adesso è meglio. Adesso utilizzano questo gas che insomma non è così pericoloso. Caso anche di impatto, di incidente o di ribaltamento non esplode, insomma, perché il pericolo di girare con le bombole di gas è questo. Posso chiedere un'altra cosa? Il sonoro di queste bellissime immagini, sì, che abbiamo seguito, se fosse scelto con una maggior diversa attenzione, considerando il fatto che il sonoro di queste immagini deve servire da accompagnamento per le immagini, e non viceversa, come tra virgolette un pochino esageratamente è successo oggi, che ha distratto un po'. Troppo alto oppure? Troppo alto. Qui sì, io non ho il. Non solo troppo alto. Il tecnico è andato via, io non. Un pochino troppo preponderante troppo rispetto all'immagine. Che... Sì. Tenga conto che questi sono brani molto usati nel mondo degli airshow, quindi ho anche cercato di ricreare un po', perché molto spesso queste pattuglie si esibiscono a tempo di musica, quindi questa musica viene anche un po' dal... e anche avere la musica forte proprio all'interno dell'airshow carica un po'... Queste immagini qua è difficile che non è... si possa rivedere in un'altra occasione se non su quel libro lì così. Ci sono tutte qua, eh? Va bene, va bene, terremo conto per un'altra. A discolta del nostro ospite, devo dire che questa è una biblioteca, quindi non è purtroppo attrezzata come un cinema o come una sala di musica, quindi l'acustica sicuramente non è adeguata, ma già questo rovina magari l'emissione del motivo sonoro. E poi anche l'attrezzatura che abbiamo. Ma poi sai, Valeria, la musica è sempre una cosa particolare, ognuno ha dei gusti particolari, c'è chi vuole la musica classica, chi vuole la musica rock un po' più un po' più funzionale e un'acustica più che insonorizza un attimo avrebbe avuto una resa più migliore, ecco. Mi rendo con una prossima proiezione. Speriamo che le possiamo ripetere ancora altre volte proiezioni di musica. Speriamo. È veramente interessante. Per noi che viviamo effettivamente coi piedi in terra, ma nel senso della parola, possiamo approfittare. Molto vogliamo. Molto volentieri, io sono disponibile. Se qualcuno mi invita, io arrivo. Grazie tanto. Come mai mancano gli alianti? Yes. Questo speravo che gli alianti mancano perché io ho iniziato fotografando tanti anni fa in bianco e nero. La mia prima sessione fotografica è stata nel mondo degli alianti, ma con tutto che ho girato il mondo, ho girato da tutte le parti, non ho ancora avuto l'occasione di poter fare delle sessioni fotografiche agli alianti come si deve, perché è molto difficile fotografare gli alianti, proprio perché volano per conto loro, e ci sono delle belle immagini fatte con delle macchine fotografiche, però io queste cose non le faccio, quindi è inutile che metto dentro immagini che non sono mie, no? Perché ci sono delle bellissime manifestazioni anche fatte con gli aerei, con gli alianti. Cosa devo dire? Il giornale per cui lavoro io non gli interessano gli alianti. Io vado anche dove mi mandano, non posso sempre andare dove voglio io, no? Abbiamo visto un Mustang, un Texan, un T6. Sono aerei che hanno una certa età, ma sono sempre in condizioni di volare? Come sono tenuti? Allora, esistono due realtà in questo caso. Ci sono gli aerei originali, che sono rimessi in condizioni di volo, chiaramente ci sono dei pezzi che sono rifatti, e poi ci sono le repliche, che sono degli aerei costruiti ai giorni nostri, partendo però dai disegni originali e molto spesso anche usando i materiali e le tecniche originali. Come il Caccento. Ecco, il Caccento, ma anche il Flyer chiaramente non è originale, di Flyer ne esiste uno che si è pure rovinato, quindi il Caccento si è distrutto al primo tentativo di volo, quindi ovviamente quelle sono repliche. Però esistono delle realtà bellissime in Inghilterra, dove ci sono air show interi organizzati solo con aerei storici restaurati. Ancora perché originali. Ci sono delle cose bellissime, perché come noi qua siamo abituati a vedere le macchine vecchie, le moto vecchie, sono degli aerei che hanno una storia incredibile, e fortunatamente questi aerei, per il volere dei proprietari o degli appassionati, non finiscono dentro nei musei. Ma vengono portati. Succede anche che si sfasciano questi aerei, perché ci sono dei capitali enormi che si sfasciano. Però io personalmente, qui non c'è nessuno nel Museo Caproni oggi, lo posso dire, io gli aerei preferisco vederli in volo, perché per me un aereo che finisce in un museo muore. Muore un pochino quello che c'è dentro di lui. Certo, ci sono gli aerei che sono delle cose di valore estremo, che non si può pensare di portarle in giro. però io quando vedo un aereo in un museo io sono triste, io provo questa tristezza. E... sì, è come vedere un animale in gabbia, esatto, è la stessa cosa. L'aereo è nato per vederlo in cielo, per vederlo volare. La fotografia del B-25, quello è stata fatta adesso? Quello è stato fatto nel 2006 a Lodrino, in Svizzera. Ecco, la Svizzera è un altro posto dove si ha la possibilità di vedere molti aerei storici che volano. Sì, sì. Svizzera è molto, ci sono degli air show molto belli in Svizzera. Sì, beh, basta andare a Friedrichshafen, che sì, poi è il paradiso delle... Infatti. Quello lì della copertina cos'è? L'ultimo? Questo? Sì. Allora, questo non è un aereo storico. Questo è un biplano, sì, ma è un aereo acrobatico. Sì, dell'ultima generazione. Non è proprio l'ultima, però diciamo che è questione di qualche anno fa. Questo è un aereo che viene prodotto in America, è il Pitt Special, appositamente studiato e fatto solamente per l'acrobazia. Quindi è un aereo che si può vedere volare anche qua da noi, perché c'è qualche appassionato che ce l'ha. L'evoluzione il sabato mattina. No, questo c'è l'aereo che vi dico dietro. Questo è un altro aereo, questo trapanese è un pilota italiano, è Francesco Fornabaio, che è attualmente il pilota acrobatico più bravo che noi abbiamo in Italia. E questo è un altro tipo di aereo, ci sono i biplani da competizione, ma ci sono anche gli aerei da competizione ad ala sì, bassa. Sì. Questo è un Extra 300 che è famosissimo, costruito anche questo solo appositamente per fare le gare acrobatiche, non sono aerei da turismo. Sopportano delle sollecitazioni veramente incredibili. Diciamo che il limite di questi aerei è il pilota. Infatti esiste una disciplina dell'acrobazia aerea che si chiama illimitata, dove veramente lì l'unico limite è l'uomo, a un certo punto oltre non può andare. Ma questa, il Piz, è una macchina che è capace di stare appesa all'elica. Quindi voi immaginate come fa un elicottero, l'aereo dritto, fermo, appeso all'elica, tanto motore ha, quindi veramente non ha limiti. L'elicottero com'è allora? Rispetto... Allora, ci sono pochi elicotteri anche qua, anche perché a me l'elicottero personalmente non piace molto. È molto bello perché ti consente di arrivare dove vuoi, di vedere dei panorami bellissimi, però col volo non ha molto a che fare col volo, insomma, non provi sicuramente quelle emozioni che provi dentro in un aeroplano. Ci sono dei team acrobatici, qui dentro ci sono, forse non ci sono qui, ma qui ci sono dei team acrobatici che si esibiscono anche con gli elicotteri, fanno dei programmi molto belli. Sono una minoranza, però, insomma. C'era quell'elicottero che voi avete visto sul deserto, quello sponsorizzato dalla Red Bull. Beh, quello è l'unico pilota al mondo che riesce a fare il giro della morte con l'elicottero. È facile. Perché chi conosce l'elicottero sa che fare il giro della morte per l'elicottero è una cosa veramente impossibile. Eppure lui con quella macchina ci riesce a farlo, io ve lo garantisco perché l'ho visto. Quindi fare evoluzioni con l'elicottero è un po' più difficile. Diciamo che non è neanche così spettacolare come l'aereo, no? Quindi giocano molto anche lì sul sincronismo, sulla musica, però... l'aereo è l'aereo, insomma, specialmente un aereo a reazione ha un suo fascino che... velocità. Sì. Devo chiedere, lei ha fatto solo fotografie, come è possibile fare filmati anche? Sì, certo, è possibile, però bisogna fare tutt'altro, nel senso che le due cose non si possono fare, o fai bene una cosa o fai bene quell'altra. Io spesso faccio delle sessioni fotografiche in cui io mi occupo delle immagini e c'è un video operatore che si occupa del filmato. Il filmato ti consente molto di più perché adesso hai tutte queste telecamere, monti la telecamera sul pilota, la monti sull'ala, cioè hai delle potenzialità sicuramente maggiori col video. Però io, come appassionato di fotografia, mi piace più l'immagine fissa che ti dà un'emozione, insomma, senza nulla togliere al video, perché come dico, specialmente nel mondo dell'acrobazia ci sono dei video bellissimi, quindi... È più facile documentare con un video, eh? Sì. È più facile. Diciamo di sì, a far entrare l'osservatore sì, all'interno più facilmente. Perché la foto è singola, fissare determinati momenti in uno scatto è sicuramente molto più difficile che fare una ripresa, quello sì. parla un fotografo ufficiale, dunque non... No, ma lui è fotografo e anche video operatore. Ho avuto la fortuna di conoscerlo. Quindi... Qualcun altro? Qualche domanda? Non chiedetemi sulla musica. No, grazie, allora è stato molto interessante, bellissimo come immagini. Bene, spero che vi sia piaciuto, grazie di essere venuti. Grazie.